vostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Buongiorno a tutti e bentrovati a Due di Denari da Deborah Rosciani. Intanto grazie di essere all'ascolto, di avere la pazienza di seguirci anche in questa seconda giornata di questo 2020 che si preannuncia ricco di tante novità, di tante cose interessanti che vi racconteremo e che riguardano la vita di noi tutti consumatori. Perché abbiamo deciso di partire insieme a Carmelo Lauricella e Claudio Balboni, che questa mattina mi aiutano a gestire la trasmissione con la sigla del Grande Fratello. Perché c'è una bella truffa che vogliamo raccontarvi, che non riguarda la trasmissione naturalmente, ma riguarda una vecchia protagonista della trasmissione, una brutta disavventura capitata a Roberta Beta, ex concorrente del Grande Fratello, ora collega giornalista e anche speaker radiofonica. Con il suo compagno e una coppia di amici avevano organizzato di trascorrere il Capodanno a Cortina, prenotando una villa su una nota piattaforma di affitti online. Quando però sono arrivati nella rinomata località sciistica in provincia di Belluno, della casa non c'era proprio nessuna traccia. L'affittuario è sparito con la caparra da lei già versata tramite bonifico, ed è stata la stessa Roberta Casa a denunciare quanto accaduto prima ai carabinieri e poi ad alcuni giornali del posto, al Corriere del Veneto, ricostruendo come sono andate le cose. Ha ricordato che alcuni giorni prima aveva individuato questa bella villa, posso anche dire la piattaforma dove tutto ciò è successo, su booking.com, sì, Carmelo mi autorizza perché tanto è una notizia pubblica. Aveva preso contatti con la persona che se ne occupa appunto per accordare l'affitto, aveva preso contatti appunto con la persona che si occupava evidentemente di questo immobile per accordare l'affitto, aveva seguito, racconta ancora Roberta Beta, tutta la procedura del caso, bonifico di acconto compreso. Lunedì ci mettiamo in viaggio, dice, una coppia di amici che doveva trascorrere le feste con noi arriva prima a Cortina e si reca nel luogo dove doveva esserci la villa, ma non trova un bel niente. E quindi insomma è andata a finire così, che alla fine si è affidata ad un circolo di amici per trovare un'altra sistemazione, che ha trovato grazie appunto all'intervento di una sua amica, ma ha promesso di voler andare fino in fondo. Questa persona che ha truffato me appare molte volte su internet, credo che vada fermata con tutti i mezzi a disposizione. Insomma, stagione di vacanza che trovi, truffa che ti viene dietro. Capita molto spesso appunto di avere la disavventura legata alle vacanze, e magari sarà uno dei temi che affronteremo questa mattina nel nostro primo approfondimento dell'anno, che peraltro mi vede sola senza il mio socio Mauro Meazza, a cui ho accordato qualche giorno di vacanza. Ma Mauro, mi raccomando, torna presto, perché qua la legge di bilancio ci ha lasciato una marea di argomenti da affrontare, da spiegare ai nostri ascoltatori, che riguardano argomenti che riguardano la nostra vita di consumatori, persone che naturalmente gestiscono il budget familiare, quindi le nostre tasche saranno toccate a vario modo dalle varie misure della legge di bilancio, del decreto mille proroghe, del decreto fiscale e quant'altro, per cui abbiamo un'agenda molto ricca in programma. Quindi augurando a tutti gli ascoltatori, a Mauro Meazza, alla regia e agli assistenti in redazione, il buon anno e la buona partenza. Questi saranno appunto i temi che affronteremo quest'oggi. Quali sono? La nostra vita di consumatori, come è finita nel 2019 e come si sta aprendo in questo 2020. Le battaglie del consumerismo sono sempre moltissime, perché siamo consumatori prima di tutto, volenti o nolenti, e quindi facendo la spesa, accendendo l'interruttore del gas, telefonando, viaggiando con la nostra auto, in ogni momento della nostra giornata compiamo una scelta economica. E allora oggi con un amico di Due di Denari, Luigi Gabriele, editor di consumerismo.it, faremo un punto della situazione per cercare di anticipare quelli che potranno essere gli obiettivi dell'anno, quelle che saranno le battaglie del 2020 per le associazioni dei consumatori. Quali saranno le vostre? Me lo volete raccontare? Noi siamo in diretta, per cui se mi aiutate questa mattina ad animare, a vivacizzare la trasmissione, a me farà molto piacere. Se vi siete presi una pausa dalla pista da sci, passate quest'ora con noi all'800 24 0024, oppure scriveteci al 349 238 6666, WhatsApp è sempre a vostra disposizione anche per i messaggi vocali, per cui io vi aspetto e mi farà molto piacere condividere con voi qualche qualche considerazione appunto sul tema di questa mattina. È però anche la prima seduta dell'anno per i mercati finanziari e quindi oggi abbiamo spostato a giovedì il Meteo Borsa e direi, caro Carmelo, se sei d'accordo, di farlo subito partire. Meteo Borsa. Esattamente come il sereno ha accompagnato tutto il 2019 per i mercati finanziari, per Piazza Affari, come il sereno ha accompagnato anche queste giornate a cavallo tra Natale e Capodanno, oggi la seduta è partita di nuovo piuttosto bene, quindi l'anno parte sotto i migliori auspici. Sentiamo che cosa ne pensano i colleghi di Radio Cori Il Sole 24 Ore. Stefania Arcudi, buongiorno e grazie di essere con noi. Se insomma la partenza è questa, con due donne che raccontano i mercati finanziari, chissà che non porti fortuna anche questa, così un po' connotazione di genere del racconto finanziario. Stefania, buongiorno. Vabbè, una partenza un po' stupida da parte mia, ma saranno ancora un po' i postumi del Capodanno. Buongiorno e bentrovata. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori, auguri anche da parte mia. Come dicevi, la giornata dei mercati oggi è molto positiva. Milano già guadagna l'1,2%, lo stesso Parigi, Londra, Madrid, un po' più lenta Francoforte che guadagna solo 1,08% dopo i dati un po' deludenti sul manifatturiero. Esatto. Dati che in realtà sono arrivati anche in Italia, sono stati in dicembre, c'è stato un calo, ma per oggi questo non interessa. Esatto, il tema diciamo della contrazione dell'attività manifatturiera europea è un tema di cui si è discusso molto nel 2019, perché è un tema conclamato, tanto che questo rallentamento è stato seguito anche dall'azione delle banche centrali. La Banca Centrale Europea farà ancora molto per sostenere l'economia, quindi in qualche maniera forse gli indici PMI di tutte le principali economie europee, quello complessivo europeo, non sorprendono più di tanto e diciamo che il mercato se ne vuole proprio disinteressare. Questo è un po' il punto. E quindi stamattina Piazza Affari, Stefania, su che cosa punta? Vedo in avanzata Pirelli, più 3,42%, abbiamo delle motivazioni speciali, particolari? Sì, infatti il tema è un po' quello che ha segnato tutto il 2019, ovvero quello della guerra commerciale. Ci sono delle schiarite, in realtà tra Stati Uniti e Cina i rovesciamenti di fronte nell'anno appena concluso non sono stati pochi, però adesso insomma sembra prevalere l'ottimismo. Il presidente americano Trump ha detto che la fase 1 dell'accordo con la Cina potrà partire, l'accordo sarà siglato, così dice, a metà mese, il 15 di gennaio. Quindi insomma per il momento prevale l'euforia per i titoli più esposti insomma al discorso dazi, per cui gli industriali come Pirelli, interessata anche dal tema auto, che è un altro dei fronti più segnati. Va ricordato che Pirelli è stata in realtà l'unico titolo che ha chiuso del FTSE MIB che ha chiuso in rosso i 12 mesi precedenti, aveva perso l'8%, quindi diciamo così vuole rimbalzare, vuole recuperare, partire di slancio. Infatti guadagna il 3,4% in questo momento, è la migliore del FTSE MIB. Molto bene il settore finanziario stamattina, guidato da Unicredit più 2,37%, continua a correre Nexi più 2,37%, quindi stessa identica prestazione alla banca di Piazza Gaiolenti. Biperbanca più 2,34%, abbiamo ben impostato anche Finecobank più 2,34%, Italgas più 2,17%. Prima il settore finanziario, magari vale la pena, Stefania, raccontare l'operazione annunciata stamattina da Italgas. Infatti Italgas parte bene in questo 2020, si è aggiudicata una importante commessa per il servizio di gestione gas nell'area territoriale della Valle d'Aosta per 12 anni. L'area si compone di 74 comuni, quindi sono insomma un'area abbastanza grande, saranno 20.000 le utenze finali. Sono previsti investimenti per circa 100 milioni di euro per l'estensione della rete verso aree che ancora non sono raggiunte dal servizio, per cui insomma per l'operatore una buona partenza, il titolo guadagna più del 2%, vanno un po' meno bene le altre utility, infatti sono più sulla parità, ma spesso appunto nelle giornate particolarmente brillanti per la borsa i titoli difensivi insomma restano un po' indietro. Spread BTP e Bund, 164 punti. Andiamo allora all'esame del comparto bancario e finanziario. Stamattina andavano bene, adesso ritornano un pochino indietro. Banco BPM e UbiBanca comunque hanno un rialzo di circa un punto e mezzo. Per tutto il 2019 sono state considerate delle ideali promesse spose. Questa iniziativa straordinaria di consolidamento però è stata a volte rilanciata, a volte smentita. Stamattina il mercato sembra tornare un pochino a ripuntarci. Cosa dicono gli operatori? Potrebbe essere un anno buono per una grande operazione in Italia. Stefania, le avete sentiti? Quali settori potranno ulteriormente spingere Piazza Affari, già protagonista di un 2019 da incorniciare, dopo un 2018 da dimenticare? Allora, sicuramente il settore finanziario, dicono gli esperti, potrà tornare sotto i riflettori. Certo, non mancano le preoccupazioni anche per quanto riguarda il contesto internazionale, il rallentamento dell'economia, la Brexit, le azioni delle banche centrali. Continueranno comunque, ovviamente il tema commerciale, come dicevamo prima, continueranno a tenere banco, ma secondo gli esperti si tornerà quest'anno sull'azionario value, ovvero i titoli di che operano in settori già maturi, e tra questi appunto i finanziari, che sono stati tra quelli un po' più snobbati proprio per negli ultimi anni, proprio per diciamo così le continue tensioni, le continue preoccupazioni. Tra l'altro, e anche le rigidità, se vogliamo, delle richieste europee, che ovviamente sia da parte dei regolatori, Banca Centrale, chiedono degli sforzi patrimoniali alle banche sempre più importanti, quindi hanno potuto sostenere poco anche l'economia. Sicuramente c'è da considerare anche questo tema, Stefania. Certo, indubbiamente sì, questo andrà tenuto in conto anche nell'anno appena iniziato. Appunto il tema della regolamentazione bancaria comunque resterà centrale anche nel 2020. Va detto che comunque non ha impedito ai titoli del settore di performare bene nel 2019. Infatti sul FTSE MIB, tra i titoli che sono andati meglio sono stati anche quelli bancari. Ricordiamo, Banca Generali è salita del 59%, peraltro tornata nel sul FTSE MIB sul finale del 2019. BPER e Mediobanca hanno guadagnato il 33%, Unicredit il 31%, Intesa il 21%, UbiBanca il 15%, quindi insomma è stato un anno positivo che potrà essere replicato anche nell'anno appena iniziato. Neanche a dirlo, il peggior titolo stamattina è Atlantia, lascia sul campo un punto percentuale. Questa mi dà l'occasione per segnalare agli ascoltatori che già telefonano chiedendo delucidazioni sull'argomento che di trasporti parleremo domani. Sappiamo che il decreto mille proroghe ha bloccato l'aumento dei pedaggi di quest'anno, appunto, che era un tema ricorrente all'inizio di ogni anno, ma per tutta la questione legata al Ponte Morandi, cioè l'inibizione appunto per Autostrade per l'Italia quest'anno di intraprendere questa iniziativa. C'è un ascoltatore, Michele, che da Padova vorrebbe intervenire chiedendoci delucidazioni sull'argomento, perché dice che in Veneto c'è stato un aumento, dipende quali sono le concessionarie che gestiscono i tratti percorsi. Dall'ascoltatore Michele le anticipo già che questo sarà il nostro tema domani, per cui se ha pazienza la richiameremo magari domani per intervenire in diretta per discutere con noi di questo argomento. Nel frattempo io ringrazio Stefania Arcudi per essere stata con noi. Grazie. Buona giornata, grazie Stefania. Con i mercati ritorniamo tra qualche minuto nella nostra pausa, diciamo delle 11:30. Adesso andiamo alle altre notizie della mattinata. Amore, i soldi. Allora, qualche notizia in breve nel nostro giornale radio del risparmio, prima di iniziare la nostra lunga chiacchierata con Luigi Gabriele, editor di consumerismo.it. L'anno nuovo parte con lo sconto, tra oggi e il 4 gennaio prendono il via in tutta Italia i saldi invernali 2019, che è il primo grande appuntamento commerciale di quest'anno, del 2020. Valle d'Aosta, Basilicata e Sicilia sono le prime regioni a partire appunto oggi, mentre nel resto d'Italia le vendite di fine stagione si aprono sabato 4, oltre 4 italiani su 10, cioè il 41%, secondo Confesercenti, hanno già programmato di approfittare dei saldi per acquistare uno o più prodotti per un budget medio previsto di 168 euro a persona. Questa è l'indagine appunto previsionale che l'Organizzazione dei Commercianti fa ogni anno. ogni anno, ogni sei mesi per la verità, perché questa indagine viene fatta anche in occasione dei saldi estivi, su un campione di 1200 consumatori. L'interesse da parte delle famiglie per questo frangente dell'anno rimane molto alto, perché i saldi invernali si confermano l'evento commerciale più atteso dell'anno. Magari molti hanno rinunciato a fare un acquisto importante prima delle vacanze, prima delle ferie estive, prima di Natale, e quindi ne approfitteranno proprio a prezzi ribassati in questo momento. Anche di questo tema noi parleremo domani, per fare il consueto vademecum di tutte le attenzioni da mettere in atto per ovviamente fare un acquisto oculato, perché anche in questo caso appunto magari qualche disavventura può essere dietro l'angolo. Occhio alle collezioni che i negozi mettono a disposizione, perché in genere appunto si raccomanda, i commercianti devono mettere in sconto tutti i capi dell'ultima collezione. Se si tratta di mettere in sconto collezioni appartenenti appunto a stagioni precedenti, deve essere tutto ben visualizzato ed esposto con chiarezza in negozio, ma sono cose che sappiamo ma che domani ribadiremo. Peraltro c'è anche la rivoluzione dello scontrino, perché arriva quello elettronico. Da oggi praticamente tutti i commercianti che hanno un volume d'affari inferiore a 400.000 euro, perché quelli che avevano un volume d'affari superiore a questa cifra avevano questo obbligo già a partire da luglio scorso, entra in vigore da oggi l'obbligo appunto dello scontrino elettronico per tutti gli operatori economici che emettono ricevute fiscali. Commercianti, artigiani, albergatori e ristoratori, da ieri il mini documento commerciale che riceviamo al momento di pagare ha solo valore ai fini della garanzia o del cambio merce, quindi attenzione anche a richiederlo a quegli esercenti che non vogliono rilasciarcelo, e anche di questo parleremo appunto domani nella trasmissione dedicata ai saldi con gli esponenti del mondo del commercio. Un'altra notizia che ci riguarda come consumatori, la diffusa questa mattina presto l'osservatorio rcautodifacile.it, pare che l'anno nuovo si apra con una brutta notizia per 1.200.000 italiani, e cioè tutti quegli automobilisti che a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2019 dovranno fare i conti con un peggioramento della propria classe di merito, di conseguenza un premio RC Auto più caro rispetto a quello pagato l'anno prima. In termini percentuali, rileva facile.it, si tratta di un piccolo campione, di una piccola percentuale del 3,76% del campione analizzato, 510.000 preventivi di rinnovo RC Auto raccolti a dicembre 2019, valore in calo seppur di poco rispetto all'anno scorso, quando ad aver denunciato sinistri con colpa erano stati il 3,83% degli automobilisti. Ho voluto raccontare questa notizia per segnalare anche, per chi l'avesse persa come informazione, ma in realtà credo che molti siano stati attenti a questa novità, a febbraio entra in vigore la cosiddetta RC Auto di famiglia, dove tutti i componenti di una famiglia potranno avere la classe di merito del conducente della famiglia più virtuoso, e anche questo sarà un grande tema che seguiremo con Mauro Meazza con grande attenzione. Vi segnalo anche, e ne parleremo la settimana prossima sempre con Mauro a Due di Denari, tutte le novità che riguardano il cambiamento del bonus bebè. Si amplia il contributo per l'asilo nido, arriva l'incentivo per l'allattamento rivolto alle mamme che per patologie gravi non possono allattare al seno, sono tutte le misure a favore delle famiglie contenute nella manovra di bilancio 2020 approvata prima di Natale. Ci sono molti dettagli da conoscere, perché c'è anche una rimodulazione delle caratteristiche sostanzialmente reddituali che bisogna avere per avere questo nuovo bonus bebè, che viene concesso per ogni figlio nato o adottato dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre sempre di quest'anno. A differenza del passato, quando questo bonus veniva concesso solo ai nuclei con un ISEE inferiore ai 25.000 euro, ora la prestazione diventa universale, viene concessa a tutti i nati, ma è suddivisa in tre fasce reddituali del nucleo di appartenenza, per cui facciamo attenzione, informiamoci bene prima di fare domanda, ma andremo naturalmente con tutti i dettagli da settimana prossima con Due di Denari, naturalmente, quando ripartiremo a pieno regime con Mauro. Per le notizie in breve direi che per il momento è tutto, adesso apriamo lo sportello dei reclami di Due di Denari, poi andiamo all'approfondimento di oggi. Dillo a Due di Denari. Beh, se pensate che le banche è un po' d'anni che non hanno neanche quattro soldi per fare un'agenda decente ai propri correntisti, ragazzi, facciamo 2+2 per capire come va la situazione. Una misera agenda, neanche quella più, altro che cene aziendali. Allora, questa è una lamentela un po' così, un po' frufru, come la chiamiamo spesso con Mauro Meazza. Mi faceva molto sorridere che nell'epoca del digitale, che riguarda ogni aspetto della nostra vita, ci sia chi lamenta che la banca non ci regala più l'agenda di carta. In realtà credo che siamo rimasti intregati su tutto il pianeta ad utilizzare ancora il documento cartaceo per trascrivere tutti i nostri impegni. Ho scoperto stamattina che pure Claudio, che oggi mi assiste in trasmissione, usa l'agenda di carta insieme a me, la usa anche Mauro Meazza, un'agendina molto piccola. Io invece ho bisogno di tutto il planning settimanale davanti. Non riesco ancora a prendere appuntamenti segnandomeli appunto sull'agenda elettronica o sul telefono. Vabbè, insomma, diciamo che le banche hanno avuto anche altri peccati in questi anni. Hanno risparmiato sulla carta, non regalando più le agende. Chissà che cosa ne pensa il nostro ospite di oggi, che saluto subito, Luigi Gabriele, editor di consumerismo.it. Luigi, buongiorno, grazie di essere con noi e buon anno. Agenda elettronica o quella di carta? Beh, adesso so cosa regalarvi il prossimo anno, finalmente. Finalmente mi avete detto che avete bisogno di agende elettroniche, no? No, io ancora vado su quella di carta, Luigi. Sono appartengo ancora al Mesozoico, rimango allora, lì e mi trovo bene, direi. Beh, però io potrei regalarvele a costo zero quelle elettroniche, quelle di carta ve le andate a comprare, perché sai che si distruggono gli alberi, no? Certamente, e infatti mi dai un assist buono anche per introdurre il tema di questa mattina, perché anche di sostenibilità parleremo, visto che come consumatori stiamo pian piano cambiando molte delle nostre abitudini, sollecitati un po' dalle battaglie di Greta dello scorso anno, ma anche proprio sollecitati da tutti i cambiamenti che stiamo vivendo attorno a noi. Allora, prima di introdurre questi argomenti, volevo leggere un messaggio di un ascoltatore, magari anche questo lo commento con Luigi Gabriele. Non so se hai sentito, Luigi, che all'inizio del programma abbiamo raccontato della disavventura della concorrente del Grande Fratello, poi raccontiamo della ex concorrente del Grande Fratello, Roberta Casa, che ha prenotato su booking.com una casa a Cortina e poi è andata lì e non l'ha trovata dopo aver pagato l'acconto. Segnaliamo le disavventure dei VIP, perché ci danno modo di parlare delle disavventure nelle quali incappano molti comuni mortali. Un ascoltatore dice: onestamente non capisco la questione di Roberta Beta, perché Booking prevede due modalità di pagamento con carta di credito alla piattaforma, eccetera eccetera. Il punto è che spesso ci chiedono l'anticipo, giustamente, a titolo di caparra di una prenotazione effettuata. Il problema di Roberta Beta non è come ha fatto il pagamento, è che non ha trovato proprio la casa, quindi ha prenotato un immobile che non c'era. Allora, come associazione dei consumatori vi ritorna che quest'anno ci siano casi molto diffusi di questo tipo, Luigi, oppure al momento stiamo parlando solo di un caso capitato ad un VIP e poco altro? Ma non è l'unica, al punto tale che la Commissione europea, che come sai è grazie a lei che abbiamo una protezione del consumatore, sì, così estesa ormai in Italia per recepimento delle direttive comunitarie, si è dovuta inventare una nuova direttiva che tra l'altro entra in vigore nei prossimi mesi, si chiama la direttiva geoblocking, che fa riferimento al fatto che ci sono troppe differenze tra paese e paese a livello intrafrontaliero e extrafrontaliero. Quando uno fa un acquisto prevalentemente online si trova delle condizioni talmente tanto diverse rispetto a quelle che ha nel proprio paese, che deve armonizzare queste tutele del consumatore. Ormai siamo diventati, infatti voglio sancire finalmente quest'anno, i consumatori italiani sono diventati dei e-commerce a tutti gli effetti, ovvero sono diventati dei consumatori elettronici. L'acquisto online è estremamente molto più protetto dell'acquisto cosiddetto nei locali commerciali, al punto tale che tu hai addirittura il diritto di recesso che dura 14 giorni, cosa che non hai invece quando compri qualcosa in un negozio tradizionale. Mm-hmm. Però devi saper farti valere, devi conoscere le tue tutele. Ecco, in un caso come questo di Roberta Beta, la piattaforma su cui ha effettuato la prenotazione avrà l'obbligo di risarcirla, oppure lei se l'è vista con il tizio che ha messo ha pubblicato un annuncio con la casa che avrebbe voluto dare in affitto, in questo caso è tutelata o no? avrà letto le condizioni contrattuali, solito punto, perché in molte delle piattaforme tu non fai nient'altro. Si esonerano dalla responsabilità. Esatto, tu non fai, si mallevano, non fai nient'altro che utilizzare una piattaforma di intermediazione, ma poi il contratto dalle tue parti rimane il contratto tipico. Magari la piattaforma ti dice da me ottieni soltanto il contatto di intermediazione per il pagamento, ma le condizioni contrattuali e il contratto si va a definire soltanto tra i due soggetti e magari i due soggetti non hanno nemmeno ipotizzato di capire com'è strutturato, certo, il contratto che viene fornito sempre dalla piattaforma. E non è, purtroppo non è sempre omogenea la tutela del consumatore in questi casi e dipende estremamente dal tipo di piattaforma adottata. Certo, per esempio, che uno immagina che andando a Cortina è proprio una disavventura del genere. Se uno sceglie una località amena, dispersa nel nulla, magari forse può essere più probabile che ti capiti una cosa del genere, ma nella bella Cortina ricca, insomma, è forse più improbabile. Le cose più ricercate sono le tendenze, fanno tendenza anche tra i tuffatori, quindi se Cortina è di tendenza piuttosto che Lipari o piuttosto che Rimini, è normale che la maggior parte delle truffe si vanno ad annidare proprio in quel luogo. Bene, allora, oltre a questo stamattina però parleremo di tanto altro, parleremo di bollette, di quelle spese che incidono nel nostro bilancio familiare, della scelta dell'operatore del gas o dell'energia, dell'operatore telefonico. Quali sono le vostre battaglie come consumatori che avete lasciato, quelle che vi hanno indispettito di più nel 2019 o quella che intendete far partire subito in questo 2020? 800 24 00 24 per raccontarcelo in diretta. Mi prendo un minuto di pausa, ma relativo, perché devo raccontarvi adesso cosa succede in borsa e poi cominciamo la nostra lunga chiacchierata con Luigi Gabriele. A tra poco. Debora, sei in ritardo. E come vai a presa? Debora, le borse. E mai faccio, ma vai a presa? Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... Gli abbiamo dato tanto. Troppo. Tutto. Tutto sì, ma non Credit Reform. Il gruppo Credit Reform, con un fatturato di 550 milioni di euro, è la prima società di informazioni d'Europa ed evade ogni anno più di 16 milioni di informazioni commerciali e 500.000 aggiornamenti gratuiti a 170.000 clienti. Un servizio unico, completo, sicuro. Grefo Cert, il certificato rilasciato da Credit Reform, rafforza la tua posizione con clienti e fornitori. 800 425 325 o creditreform.it. Di denari. Questa visione i soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco. Per i consumatori italiani c'è una sfida al giorno: gestire un bilancio familiare sempre più complicato, anche perché viviamo una stagione in cui dal punto di vista commerciale abbiamo proposte di ogni tipo che ci obbligano ad una conoscenza, una consapevolezza sempre maggiori. Fra la spesa di tutti i giorni, la scelta dell'operatore telefonico, il fornitore di gas ed energia, il mutuo, il conto corrente, la necessità di risparmiare ma anche di consumare oggi in modo più responsabile, perché le ricadute sull'ambiente sono sempre più serie. Ecco che abbiamo una scelta complessa, come vi dicevo, da fare ogni giorno. Allora, come abbiamo chiuso il 2019, come si apre il 2020, che consumatori siete diventati in questa prima parte di questo millennio, quale scelta vi siete imposti di fare quest'anno? Peraltro, lo dicevo anche prima, ci sono in arrivo tutti i provvedimenti della legge di bilancio da esaminare nel dettaglio e lo faremo da lunedì con Mauro Meazza. Molti entrano subito in vigore, altri nei prossimi mesi, altri aspetteranno chissà quanto a lungo. I consueti provvedimenti attuativi, teniamoci informati e teniamo le antenne dritte. Luigi Gabriele, editor di consumerismo.it. Il bilancio 2019 per il consumatore italiano ci lascia qualche strascico negativo? Allora, intanto quest'anno fortunatamente è finita, entrata in vigore la riforma complessiva che prevede la cancellazione dei famosi fenomeni dei maxi conguai, no? Che entra in vigore ieri, è entrata in vigore l'ultima parte di rimasta, quella sull'acqua, poi parleremo dopo magari, ma questo è importante perché si va ad aggiungere un'altra importante vittoria che in teoria è arrivata dalla legge di bilancio, che è quella sulle famose bollette pazze, un altro fenomeno tutto italiano, uno paga le letture dei contatori, in realtà paghi la lettura, ma il letturista e soprattutto la telelettura non è bene. Entra in vigore quest'altra misura che sostanzialmente dovrebbe ridurre il fenomeno. Rimangono molti nodi, soprattutto per quanto riguarda le bollette. Uno dei nodi principali è che questa benedetta riforma tariffaria, che doveva favorire l'uso dell'energia elettrica al posto di altri vettori, in particolar modo il gas o le biomasse, ha sostanzialmente distrutto il bilancio delle famiglie, soprattutto delle famiglie meno numerose, soprattutto mm-hmm. i single, gli anziani, perché si sono ritrovati la famosa bolletta con oneri di sistema estremamente esosi rispetto a un consumo quasi inesistente, soprattutto nelle seconde case, nella casa vacanza, ma anche e soprattutto nella prima casa. Molti si saranno accorti che queste voci ulteriori presenti in bolletta sono esplose. Questo perché è entrata in vigore la riforma tariffaria. C'è da chiedersi: è il caso di rivederla? Sarebbe il caso di rivedere l'impostazione e tornare magari al principio meno consumo, meno pago? Certo, questo è un intervento giusto di legge che dovrebbe essere fatto, una nuova disposizione da parte dell'autorità che regola, da ARERA? Beh, basterebbe che qualcuno dicesse all'autorità: rivedi se questa riforma ha sortito effetti positivi per l'ambiente e per le tasche dei consumatori. Nel caso in cui no, non è avvenuto, torniamo al meccanismo precedente, quindi non andrebbe fatto nemmeno una misura legislativa estremamente complessa. Tra l'altro, aspetta Luigi, guarda, chiedo a Claudio, c'è un ascoltatore, Pietro da Reggio Calabria, che vorrebbe raccontarci di una richiesta di pagamento da un grande operatore per un'abitazione dove è stato in affitto molti anni prima, ha dovuto affrontare una causa per avere ragione. Magari questo potrebbe essere un tema legato alle prescrizioni delle quali parlavamo poco fa appunto con Luigi Gabriele. Intanto di ascoltare dalla sua viva voce la sua testimonianza a proposito di bollette di luce e gas. Luigi, in realtà una piccola vittoria come associazione dei consumatori l'avete portata a casa, ma è stata una battaglia nella quale si è impegnata in prima persona ARERA proprio nell'ultima parte dell'anno, quella di rinviare l'abolizione del mercato tutelato a partire dal che doveva essere una cosa diciamo della prossima estate, invece si rinvia tutto come partenza al 1 gennaio del 2022. Questo perché il mercato si è affollato di operatori che in realtà hanno generato molta confusione fra i consumatori. Beh, diciamo che non ci sono le condizioni e siamo al terzo rinvio opportunamente, perché al di là delle condizioni prettamente legate alla consapevolezza del consumatore, torno a chiedere, abbiamo ancora capito qual è la differenza tra il mercato libero e il mercato tutelato? Sappiamo già quanto costa un kilowattora di energia piuttosto che un metro cubo di gas? No, non è così, la gran parte dei consumatori non lo sa, non riesce a comprenderlo, la confusione è massima. C'è stato questo rinvio soprattutto perché, vorrei ricordare, la legge istitutiva, cioè la legge che abolisce il mercato di tutela, aveva stabilito che il mercato poteva essere abrogato nel momento in cui c'erano delle condizioni di fattibilità per questa abrogazione. Una tra tutte era fare un cosiddetto albo dei fornitori. Certo, tu sai che esatto. In Italia in questo momento noi abbiamo, tutti si lamentano che è un mercato povero, ma in realtà noi più abbiamo più di 200 operatori, quanti no, sono? Più di 400 soltanto nell'energia, sì, e altrettanti nel gas, quindi un numero così elevato di operatori non giustifica la povertà del mercato, quindi vuol dire che se qualcuno ci investe fanno dei soldi. E poi c'è tutto il tema di, nel momento in cui il mercato tutelato finisce, qual è il meccanismo che trasporta il consumatore che non ha scelto nel nuovo libero mercato? Lo facciamo volontariamente o come il carro di bestiame prendiamo milioni di consumatori che non hanno voluto scegliere e li affidiamo a qualcuno? Allora questa non è libertà di mercato. Scusa, intanto Luigi, sto guardando il dibattito che su WhatsApp si è scatenato sulla prima notizia che abbiamo dato, che a me sembrava una disavventura che può anche capitare, che non dovrebbe capitare, ma che è capitata appunto a Roberta Beta. Ma pare che molti ascoltatori rilevino un atteggiamento abbastanza incauto da parte della persona in questione, adesso a parte la faccenda della VIP o meno, ma perché molti sostengono che se ha pagato tramite la piattaforma verrà risarcita. Nel caso in cui abbia pagato con bonifico è perché probabilmente ha voluto aggirare l'attività della piattaforma contattando direttamente il proprietario di questa casa che ha evidentemente a cui ha anticipato questa somma. Allora, io in realtà tutte queste questi dettagli della vicenda non li conosco, ma se state rilevando tutti la stessa cosa, dovremo probabilmente ritornarci ancora una volta sulle possibilità di recesso da contratti in questo ambito. Quindi hanno ragione anche gli ascoltatori che dicono: se è stato fatto tutto secondo i crismi, la piattaforma appunto sarà la prima a ovviamente volersi tutelare, a voler tutelare i propri clienti e consumatori che si avvalgono della sua attività per prenotare appunto vacanze, soggiorni e quant'altro. Ci ritorniamo, ma non è il tema che adesso voglio affrontare con Luigi Gabriele, perché abbiamo pescato invece Pietro da Reggio Calabria che voleva raccontarci la sua disavventura con una bolletta. E intanto, Luigi, non ti dico cosa non sta arrivando sulle telecomunicazioni. Io pensavo che stamattina stessero tutti a sciare, ma mi sono proprio sbagliata totalmente. Pietro, buongiorno. Buongiorno a voi, intanto buon anno. Anche a lei. Complimenti per la trasmissione. Ecco, volevo un po' raccontare la mia disavventura. Io mi è pervenuta un pagamento per un consumo effettuato da parte dell'Enel Distribuzione dal 2012 al 2017, su un'abitazione che io avevo avuto in affitto fino al 2009. Capisce perfettamente che è una cosa completamente fuori da ogni logica contrattuale. E invece chiedono a lei di mettersi in regola con questo pagamento. Lei chi abita adesso quella casa? Prego? Chi abita adesso quella casa? C'è qualcuno? Non ho idea. Vabbè. Non ho idea. Però mi sono lei... pervenute tantissime richieste di pagamento, minacce di stacco, mi hanno addirittura staccato l'abitazione, la fornitura elettrica nell'abitazione che dove io sta di adesso. Ma lei non ha potuto dimostrare in qualche maniera che non abita più lì da anni? Sì, in tutti i modi. Però. Non ne hanno assolutamente tenuto conto. Pietro, ho dovuto so... mettere un legale. Certo. E adesso a che punto è? Adesso, dopo 2 anni, a novembre dello scorso anno, finalmente hanno capito l'assurdità della situazione e hanno emesso una fattura in detrazione dell'importo addebitatomi. Grazie Pietro, vabbè, cose che capitano ma che non dovrebbero capitare. Effettivamente, Luigi Gabriele, che cosa ci suggerisce tutto questo? Che molto spesso anche nelle migliori aziende i sistemi di informazione interni non comunicano con grande facilità, perché se questo signore è già via da questa casa dal 2009 e gli chiedono di mettersi in regola con un pagamento per un periodo che va dal 2012 al 2017, lui non riesce neanche a dimostrare che lì non ci abita più e addirittura gli chiudono l'utenza della casa dove sta adesso, mi sembra veramente fantozzi. Però questo è il fenomeno del disallineamento informativo. L'hai detto tu con il tuo editoriale all'inizio, siamo sempre più esposti a decine se non centinaia di nuovi rapporti di natura consumeristica che si instaurano durante l'anno tra un consumatore e una miriade di fornitori. Se non conosci correttamente, cioè il consumatore oggi, la prima regola è sapere per poi acquistare. Nel momento in cui sai cosa che stai facendo, allora sai anche quale potrebbe essere una soluzione nel momento in cui c'è un problema. Con i fornitori soprattutto di energia elettrica, gas, acqua, ma telefonia mi insegni, c'è un disallineamento di rispetto a quanto il consumatore, al potere che ha il consumatore rispetto al fornitore, all'operatore. Ebbene, però devo dire che negli ultimi anni la protezione dei consumatori è talmente tanto cresciuta che, a parte, bastano alcune chicche di... E che succede qua? Allora, abbiamo da una parte non riusciamo a trovare il traffico, dall'altra parte si chiude la telefonata con Luigi Gabriele. Tutto ciò mi succede alle 11.45. Allora, Carmela, abbiamo trovato i colleghi del traffico? Allora, facciamo una cosa, che perdo un po' di tempo leggendo qualche messaggio. Si mena il camperlaia, come funziona. Allora, il caso di Roberta Beta, che ha generato la curiosità più grande questa mattina, diffuso anche su altre piattaforme, ci segnala un ascoltatore: il pagamento con bonifico e uno specchietto per allodole non è più sicuro di altri, infatti i correntisti, una volta raccolte le quote dei truffati, chiudono i conti e spariscono. Vabbè, insomma, questa... è un ulteriore commento. C'è Luigi Gabriele. Luigi, ci è ricaduto, ti sei fatto male, no? Tutto a posto? No, sono integro. In realtà è così: se tu paghi con il bonifico, hai meno tutele rispetto ai sistemi di pagamento cosiddetto elettronico, da PayPal fino alle carte di credito e così via. Addirittura le carte di credito, non tutti sanno che nel caso in cui fai anche un acquisto incauto, nella gran parte dei casi sei assicurato, i rimborsi, e poi si possono interrompere le transazioni, con il bonifico invece no. Infatti è apparso molto strano anche a me il caso che hai citato all'inizio. La dobbiamo leggere meglio la notizia, io pensavo di farci un'apertura appunto che si esaurisse lì, invece ancora una volta mi sbaglio, non si finisce mai di imparare. Carmelo, sul traffico abbiamo delle notizie? No, evidentemente sono gli amici del traffico che hanno deciso di prendersi una giornata di pausa e noi andiamo avanti. Volevo prendere un'ascoltatrice, Luigi, che ci voleva dire la sua e fare il suo personale punto della situazione sulla questione. Ta-ta-ta-tan, bollette a 28 giorni. La peschiamo, ce l'abbiamo Rosa? Claudio, l'abbiamo recuperata. Rosa, buongiorno. Rosa ci chiama da Torino. Sì. Eccoci. Buongiorno. Buongiorno Deborah, buon anno anche a lei. Eccoci. Io ho un problema con la telefonia fissa con Wind. Bene. E da settembre che cerco di avere questo torno tramite fattura e non ci riesco, perché mi era arrivata appunto questa informativa in base alla delibera bla bla, che avevo diverse opzioni tra le quali il ristoro tramite storno in fattura. Mi palleggiano dal 155 a un negozio, vado avanti e indietro, uno mi dice di andare dall'altro e io questa cosa non so come risolverla. Guardi, insieme a lei tanti altri utenti di telefonia in Italia sono in attesa di avere questo benedetto rimborso per il periodo in cui le bollette sono state applicate appunto a 28 giorni. Adesso abbiamo il traffico e poi subito ci dà tutte le indicazioni che teoricamente dovremmo seguire. Luigi Gabriele, un attimino di pazienza, ritorniamo subito. Ogni venerdì a Due di Denari torna al momento poetico. Partecipa anche tu sfidando il sommo poeta titolare Mauro Meazza a comporre un sonetto su un tema a tua scelta. Ma ricorda, l'argomento dovrà essere tratto dalle nostre trasmissioni. Investimenti, risparmi, mercati, tasse, pensioni, leggi. Se sei pronto per questo duello a colpi di poesia, non ti resta che iscriverci a duedidenari@radio24.it. La finanza è poesia. Due di Denari. Prendo la scusa per augurare buon anno, buon lavoro a tutti e confermare a Deborah Rosciani che siamo ancora tantissimi a usare l'agenda di una volta, chiamiamola così. Grazie ancora e buon lavoro a tutti. Buon anno. E meno male che nell'età della pietra non ci vivo da sola, ma siamo ancora in tanti. Allora, grazie agli ascoltatori che sostengono il partito dell'agenda di carta. Abbiamo lasciato in sospeso invece il quesito di Rosa, perché continua a chiedere al suo operatore telefonico il rimborso della bolletta a 28 giorni, ma qua latitano, non latita solo questo operatore Luigi, ma in molti. Se ci possiamo appuntare la medaglia al petto, io, te, Mauro Meazza, c'è cioè proprio questa battaglia che portiamo avanti da 2 anni e che adesso ha questo risvolto, cioè questi rimborsi che saranno anche poca cosa, ma per molti ascoltatori e consumatori è diventata solo ed esclusivamente una questione di principio, e anche se nel frattempo hanno cambiato operatore, vogliono quello che gli spetta rispetto a quanto hanno teoricamente pagato in più quando gli operatori per un periodo di tempo hanno appunto distribuito e erogato le bollette a 28 giorni e non a mese intero. A che punto siamo di questa situazione? Vogliamo ricordarlo che si tratta di 1 miliardo di euro? Ecco. E a questo punto manca soltanto il santo padre che chiede di restituire in maniera automatica. E visto che si spazientisce un po' ultimamente, potrebbe anche essere efficace la sua presa di posizione. Ecco, chiusa parentesi. La nostra battaglia, cara Deborah, adesso a questo punto è arrivare in Vaticano per risolvere definitivamente. Allora, glielo ha detto il Consiglio di Stato, gliel'ha detto prima ancora l'Agicom. Adesso non so più come farglielo dire, ma gli operatori devono rimborsare automaticamente, non ci sarebbe bisogno di nulla, il denaro ai consumatori. Ma in realtà, siccome che stanno facendo resistenza, allora io vi consiglio di fare una cosa, tra l'altro, che diverse associazioni stanno facendo, tra cui Adiconsum, che è quella di mandare un'istanza formale nel momento in cui non rispondono o rispondono picche, attraverso questa, il fatto di aver mandato questa istanza formale, questa richiesta di rimborso, si ha diritto dopo 40 giorni o dopo il tempo previsto dalle carte dei servizi dei vari operatori di ricorrere a un meccanismo che è stragiudiziale, quindi è gratuito, ma è come se fosse un giudice realmente a decidere, che prevede la possibilità di chiedere non solo il rimborso dovuto, ma anche a questo punto un indennizzo, quindi il conto cresce ancora di più. Allora, intanto guarda Luigi, ero distratta perché ti vorrei far ascoltare fra poco la clamorosa testimonianza di Sergio da Torino che ha ricevuto il rimborso dei 28 giorni. Voglio sentire come ha fatto, se ha dovuto dare battaglia o se l'ha ricevuto in automatico. Per cui adesso, guarda, ho chiesto a Claudio al volo di mettermi in collegamento con questo ascoltatore. Oltre a tutto questo, c'è anche un altro tema che riguarda le compagnie di telecomunicazioni molto recente, perché Agicom proprio nell'ultima parte di dicembre ha diffidato le principali compagnie a ripristinare le cosiddette ricariche senza costi aggiuntivi. In un minuto possiamo ricordare anche questa vicenda, Luigi? Vendevano delle ricariche da 5, ma in realtà erano 4 euro e ti costringevano a prendere soltanto quelle ricariche, ovviamente da 5 ma da 10 anche altri tagli, perché non esistevano più sul mercato quelle effettive, quindi tu andavi dal tabaccheria o piuttosto dal giornalaio, chiedevi la ricarica, pagavi 5 euro, ma in realtà poi avevi soltanto 4 euro di ricarica. Quindi l'Agicom che cosa ha fatto? Gli ha regalato a Natale, gli ha fatto un bel regalo, gli ha fatto un'altra delibera in cui gli dice non potete più fare questa cosa qui, e già prevedo che andranno avanti comunque, che poi si arriverà come... Ma sì, prendono generalmente tempo intraprendendo tutti i percorsi legali. Io colgo l'occasione per veramente fare un appello agli operatori italiani. Pietà, abbiamo veramente le tasche piene, per favore iniziamo a comportarci in maniera corretta, anche perché poi arrivano altri operatori che passa veramente un comportamento leggermente più consumer friendly per prosciugargli tutto il mercato, cosa esatto. È successo con il famoso operatore francese. Esattamente. Senti, ti faccio sentire Sergio da Torino. Sergio, buongiorno. Buongiorno, io ho due cose da dire, una bella e una che mi piace sempre poco. Tim finalmente mi ha rimborsato i famosi 28 giorni applicati sulle bollette del telefono di casa. Quanto, e lì sono contento. Quanto le ha ritornato? Quanto le 26 euro circa. Però, infatti, ci si paga un altro mese di abbonamento, insomma, qualunque altra scelta. Sì, ma io di abbonamento sempre con Tim a suo tempo, che ne pagavo quasi il doppio rispetto a oggi. Sono riuscito a dimezzare quasi il 40% il costo della bolletta. Senta, ma lei il rimborso, Sergio, mi scusi se torno alla questione precedente, l'ha richiesto o le è arrivato in automatico? No, l'ho richiesto io telefonicamente dopo aver fatto decine di telefonate, più o meno. Non è che è stata proprio una passeggiata. Parlavo sempre con i call center stranieri. Io finalmente ho parlato con un call center italiano e mi ha soddisfatto. Bene. Grazie Sergio per la sua testimonianza e quindi chiediamo agli ascoltatori, so che voleva dire un'altra cosa, mi mancano 3 minuti di tempo prima di concludere, Sergio non ci riesco, ce la scriva a 2didenari@radio24.it perché ho ancora qualche altro tema da affrontare con Luigi Gabriele, ne avremmo qua una carrellata che non finisce più. Gli ultimi minuti di tempo, sai a chi li dedichiamo Luigi? Ai bambini, perché qua è in arrivo la Befana con un sacco ancora di giocattoli o altri doni per tutti. Come consumerismo.it avete fatto una campagna molto interessante sulla sicurezza dei giocattoli che Babbo Natale e la Befana portano ai nostri bambini. Perché avete deciso di impegnarvi in questo fronte, su questo fronte? Perché a quanto pare l'agenzia Dogane Monopoli ha fatto delle prove in laboratorio e il 50% dei giocattoli in importazione o comunque provati in laboratorio dedicati ai bambini da 0 a 36 mesi erano estremamente pericolosi. Significa che contenevano dei contaminanti estremamente pericolosi per la salute perché potevano essere inalati o attraverso gli altri sensi ingeriti e in molti casi avevano pezzi che si staccavano dalla struttura del giocattolo che se venivano ingeriti potevano portare al soffocamento del bambino. Com'è che per noi i bambini sono la cosa più importante, perché non c'è qualcosa di più importante di un bambino, ci tengo a ricordare ai consumatori italiani che potete far felice i vostri bambini attraverso un dono, che è anche semplicemente spesso lo stare insieme a lui, non necessariamente un giocattolo, ma se proprio volete cercare un giocattolo, chiedete giocattoli che siano sicuri. Come si riconoscono? Attraverso intanto il marchio di conformità europea, che deve essere il CE distanziato 5 mm la C dalla E, altrimenti è China Export, quindi vuol dire che è contraffatto e non rispetta lo standard delle normative europee. E poi fate attenzione prima di scegliere un giocattolo, intanto che sia appropriato per l'età, perché molto spesso tendiamo a sovrastimare le capacità dei bambini, ma sovrastimandoli li mettiamo in condizioni che possono andare appunto incontro a pericoli. Pensate se si staccano delle particelle di tessuto, che magari finti capelli dai nipponi, o piuttosto i capelli dalle barbie, o piuttosto i Lego che non sono estremamente piccoli, potrebbero essere ingeriti da bambini che non hanno la consapevolezza di quello che stanno facendo. Assolutamente. Quindi, però noi come adulti la consapevolezza di quello che stiamo regalando loro ce l'abbiamo. Allora, intanto, esatto, ascoltatori che vogliono richiedere il rimborso per la bolletta 28 giorni, come fare la richiesta? Chiede un ascoltatore, mail, PEC, che cosa? L'ascoltatore che ci ha chiamato prima ha tormentato il call center e l'ha ottenuto, quindi in realtà non c'è una prassi, ma magari quella più indicata in 5 secondi, Luigi, quale può essere? Ma se volete andate sul sito adiconsumo.it e trovate un meccanismo per la richiesta del rimborso, c'è un modulo. Perfetto, c'è il modulo. Poi un altro ascoltatore segnala addirittura Concilia Web, ha ottenuto il rimborso di 33 euro in poco tempo. Luigi, lo consiglio perché possono fare da soli, è completamente digitale. Ottimo, 30 secondi, dacci due consigli di lettura per quest'anno per diventare consumatori più consapevoli. Che cosa dobbiamo leggere? Io vi assicuro di leggere Luca Ricolfi, La società signorile di massa, un libro fantastico per capire che cosa è successo in questo paese e soprattutto per capire che perché dagli anni 60 ad oggi siamo diventati una società signorile nonostante lavori soltanto il 40% della popolazione attiva. Bene. E poi vi consiglio anche di leggere Jeremy Rifkin, The Green New Deal, che è dedicato interamente a farci capire che siamo entrati esattamente oggi in una nuova era, che è quella dell'economia Grazie. Circolare. E io invece vi consiglio di continuare a seguire Due di Denari, perché Luigi Gabriele torneremo sicuramente ad invitarlo per la consueta chiarezza con cui ci aiuta a gestire le nostre battaglie di consumatori. Luigi, buon anno e grazie. Grazie anche a Carmelo Lauricella, Claudio Balboni per l'aiuto di oggi. Io torno domani, ma torno pure stasera a Focus Economia, immaginate voi. Buona giornata a tutti.